La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it. Radio 24 Reportage. Franco Nones, per tutto l'oro del fondo, di Dario Ricci. Nones ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 50 secondi sul secondo arrivato, Martinsen, e di un primo e 15 secondi sul terzo, il prestigioso Menti Ranta, medaglia d'oro a Innsbruck e a Oslo. Ecco Nones negli ultimi metri della sua vittoriosa impresa. Lo accoglie l'abbraccio dei compagni, dei suoi dirigenti, ai quali va in parte il merito di questo successo. Il primo nella storia dello sci da fondo azzurro, il primo nella storia dello sci da fondo non nordico. Febbraio 1968, Grenoble. L'italiano Franco Nones conquista l'oro nella 30 km di fondo ai Giochi Olimpici Invernali. Una vittoria che cambia la storia di uno sport fino allora dominato da scandinavi e sovietici e che deve ora invece applaudire il trionfo di questo figlio della bassa Val di Fiemme. Un semplice sì a mezza voce. Era bastato quel semplice ed essenziale segno di assenso tra il CT Vincenzo Strummolo, il direttore tecnico azzurro Bengt Herman Nilsson e Franco Nones per definire la strategia per la 30 km di sci di fondo che si sarebbe svolta il giorno dopo, il 7 febbraio 1968, sul circuito di Autran, 10 km da ripetere tre volte. La sede delle gare di fondo nelle faraoniche Olimpiadi invernali che il generale de Gaulle aveva organizzato in pompa magna per esaltare la Francia e quindi se stesso. L'abbondante nevicata della giornata inaugurale delle Olimpiadi aveva creato non poche difficoltà agli organizzatori, impegnati a coordinare il cerimoniale della fiaccola e soprattutto a far accettare proprio a de Gaulle l'idea di stare due ore al freddo e al gelo in attesa di aprire ufficialmente i sacri giochi di Olimpia. L'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ebbene, quella stessa neve era stata accolta dalla squadra azzurra di fondo invece come una benedizione, un vero e proprio segno del destino in vista della gara dell'indomani, come ricorda ancora oggi lo stesso Nones. Per italiani, ma ancora oggi, rendiamo meglio sulla neve fredda che non sulla neve calda. Neve calda è più una neve da scandina, vi sembra strano, ma è così, insomma, no? E allora, logicamente, dopo aver nevicato e ha fatto 7-8 gradi di freddo, la neve farinosa, per noi era quello che si cercava, insomma, no? Un successo, quello di Nones, costruito da lontano, stagione dopo stagione, grazie al paziente lavoro di Nilsson e Strummolo. Uno svedese innamorato dell'Italia, il primo. Nilsson è stato un uomo eccezionale, perché non era un gran tecnico che ti insegnava a sciare, però è stato un gran organizzatore. Un allenatore non serve che dica come uno deve fare sciare, perché se arriva in nazionale. Lui è stato un grandissimo organizzatore. Dopodiché era uno psicologo. Riusciva a capire un atleta quando non si allenava perché non aveva voglia e quando non si allenava perché aveva i suoi problemi di famiglia, che è una cosa molto importante per un allenatore. Strummolo invece, straordinario promoter sportivo. Non aveva niente a che fare con lo sci. Lui era un organizzatore del Sei Giorni di Milano, tutore di Mazzinghi, Loi, Benvenuti, però era talmente un appassionato che ha preso in mano anche lo sci. È stato veramente molto molto molto in gamba. Al via Nones parte col numero 26, numero particolare dal punto di vista tattico, spiega il campione azzurro. Il problema era che io ero partito primo del gruppo rosso, c'era il primo 25, poi il 25 del gruppo rosso, che il gruppo rosso è quello che ogni nazione sceglie il suo migliore. A quei tempi non c'erano molte radioline, io avevo il tempo sempre 5 km dopo. Io praticamente tutta la gara ho fatto come un ladro, ho dovuto scappare. Il grande favorito, l'asso finlandese Menti Ranta, spentosi nel 2013 a 76 anni e che in carriera vinse 19 medaglie, di cui 8 d'oro tra Olimpiadi e Mondiali, scatta invece col pettorale 31. Un ulteriore vantaggio per il finnico. che può così tenere d'occhio i parziali dell'azzurro. Ma Nones, fedele alle consegne, parte subito fortissimo. Lui partiva col 31, perciò era due minuti dietro, basta che uno aveva un scarso orologio e faceva presto a vedere che distacco c'era, insomma, no? Proprio in quel momento mi sono reso conto, quando mi hanno detto che al 20° chilometro guadagnavo solo 4 secondi, che qualcosa doveva succedere, perché io ero andato forte, l'ho battuto altre volte, sapevo la forza mia e la forza sua, sicuramente era superiore alla sua, però in giornate buone l'ho battuto altre volte. E allora dico, se lui ha fatto una cosa del genere mentre Martinsen, che poi è arrivato secondo, ogni chilometro perdeva, e allora mi sono convinto che prima o poi doveva cedere, insomma, no? Tanto quello che è successo, perché poi è arrivato a 1:15. C'erano tutti a contendere il successo al nostro Nones, dai finlandesi agli scandinavi, ai sovietici, c'erano americani e giapponesi, i nostri tradizionali avversari, gli europei, c'erano perfino dei coreani. Nones non ha lasciato a nessuno di costoro il tempo di riflettere. È partito all'attacco come un razzo, viviamo appunto l'epoca dei missili. Ha continuato fortissimo anche dopo i primi 10 chilometri, quando è sembrato che la controoffensiva condotta dal finlandese Eero Mentiranta e dal norvegese Odd Martinsen stesse per avere ragione del piccolo azzurro. Ha resistito alla inevitabile crisi a metà percorso. Si è affacciato al tratto conclusivo del percorso con pochi secondi di vantaggio, ancora primo. Ha vinto in quel momento. I suoi avversari hanno capito che in quel giorno contro Nones non vi era proprio nulla da fare ed hanno ceduto. L'altro azzurro De Florian chiude ottimo quinto. Dopo gli abbracci al traguardo, è il momento del podio. Il neocampione olimpico sul podio del vincitore, mentre riceve la medaglia d'oro così meritatamente conquistata. Ed ecco gli sconfitti: Odd Martinsen, Norvegia, medaglia d'argento. Eero Mentiranta, Finlandia, medaglia di bronzo. Sconfitti abbiamo detto, ma sempre ammirevoli, perché battuti da un grandissimo campione. Ed ecco l'inno italiano, mentre sul pennone sale la bandiera bianca, rossa e verde, ed accanto quelle di Norvegia e di Finlandia. Poi una nuova incombenza. Nones è il primo oro della storia dei giochi invernali a sottoporsi al controllo antidoping, in vigore proprio da Grenoble 68. Ma mi hanno detto che dovevo andare a fare la TT, io sono andato, non si è andati, anche perché intanto a quei tempi non si sapeva cos'era il doping. Poi è venuto fuori con la Germania dell'Est, con Grimmer, Klause, che erano venuti fuori, poi quando sono scappati da là hanno raccontato un po' cosa combinavano loro. Sono andato per fare una cosa che non conoscevo, insomma, un po' di parole. L'oro di Franco Nones cambia la storia dello sci di fondo mondiale, ma anche in Italia. Praticamente lo sci da fondo in Italia è nato in quel momento, no? Dopo la mia vittoria si è aperto tutte le strade. In Scandinavia non sapeva che potevo vincere. In quella stagione ho fatto 11 gare e il più brutto piazzamento è stato quarto. Di conseguenza ho ronzato in giro al podio per 11 gare, insomma. È stata una grossa novità qua in Italia, perché il fondo era seguito poco. Se non c'era Strumolo sarebbe stato seguito zero. E con la sua autorità di organizzatore da 6 giorni, ai giornalisti che seguivano quegli sport gli ha imposto di essere sempre pronti quando noi facevamo gare. Da concreto uomo di montagna, il neocampione olimpico mantiene i piedi per terra. È stata una grandissima vittoria, ma che sotto una certa formula avevo in mente, insomma, in qualche modo, no? Prima o poi deve arrivare. Logicamente, se arriva nel momento più bello, meglio ancora, insomma, no? Sono stato felice che sia arrivato, ma non è che mi sono esaltato più di tanto. 4 anni dopo, a Sapporo, Nones conclude nelle retrovie la 15 chilometri. Poi, appena 31enne, decide di ritirarsi. Nella mia testa non è mai esistito che lo sport doveva essere il mio fine, insomma. Ho smesso presto, perché nel frattempo avevo iniziato, mentre ancora gareggiavo, avevo già iniziato l'attività di commerciante e avevo in mano tutte le migliori di case scandinave, insomma, no? Tant'è vero che allora avevo un mercato del 30-35% del mercato dello sci da fondo in Italia. Per fare queste cose qua devi essere lucido, non devi essere uno sciatore stanco. Questa è stata la mia scelta, no? È una scelta di vita.